son le cose che non so, e pur di saperle andrei per tutto il giorno portando avanti e indietro questo fardello di bugie che gravano sull'anima mia, che non ce la fa più. Questo è un amore che non naviga più, non respira e non guardare indietro, e fatti avanti, fa qualcosa pure tu per me. Dentro i sogni sembri un mare calmo che mi porta sempre più giù, che mi abbraccia e non mi lascia più, è per te che di notte questo mare troppo calmo non mi sembra più la magica distesa che di giorno sei tu. Troppe sono le volte che di notte tu mi assilli e i miei pensieri si ritrovano a vagare soli tra le stanze che rimangono buie, tra i silenzi che ricoprono, poi stremati si abbandonano. E se provo a ripensare cose brutte da evitare, quelle che di giorno lascio più indietro, provo, ma il tuo pensiero che poi ritorna, il tuo pensiero che vuole stare con me. Troppe volte ho atteso di parlare e pur di sentire quelle tue parole che sanno trascinare, e come il vento e come la marea mi scavano nell'anima mia che non ce la fa più. Vieni, vieni il tempo di cambiare la vita, non ti ispira, legandosi è più vero, e fatti avanti, fa qualcosa pure tu per noi. Come dire questo è tanto grande, puoi ripeterlo pure tu e non distrarti, io sto parlando a te, perché se di notte questo mare è troppo calmo, può svegliarsi e se diventa una tempesta, poi travolge anche te. Troppe sono le volte che di notte tu mi assilli e i miei pensieri si ritrovano a vagare soli tra le stanze che rimangono buie, tra i silenzi che li coprono, poi stremati si abbandonano. E se provo a ripensare cose brutte da evitare, quelle che di giorno lascio più indietro, provo, ma il tuo pensiero che poi ritorna, il tuo pensiero che vuole stare con me. Troppe sono le volte che di notte tu mi assilli e i miei pensieri si ritrovano a vagare soli tra le stanze che rimangono buie, tra i silenzi che li coprono, poi stremati si abbandonano. E se provo a ripensare cose brutte da evitare, quelle che di giorno lascio più indietro, provo, ma il tuo pensiero che poi ritorna, è il tuo pensiero che vuole stare con me.